Allora, io sono Marco Werber, lavoro per CESVI e seguo un progetto in Palestina, nello specifico a Gerusalemme Est, su un campo rifugiati palestinesi. Stiamo cercando di supportare l'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di rifugiati palestinesi, per migliorare le condizioni igienico-sanitarie del campo rifugiati, nello specifico dando un supporto tecnico, ma non solo, alla raccolta e alla gestione di tutto quello che è il mondo dei rifiuti all'interno di un campo. Il progetto è in svolgimento, siamo nel terzo anno di progetto, sono 3 anni in totale di progetto, finanziato dall'Unione Europea. Riguarda appunto il campo di Shafat, che è l'unico campo rifugiati a Gerusalemme Est, che è in una situazione particolare perché si trova tecnicamente all'interno dei confini di Gerusalemme, ma quando non è stato costruito il muro di separazione è stato tenuto al di fuori, per cui si trova in una sorta di terra di nessuno, quindi i servizi sono veramente scarsi, dovrebbero essere forniti dalla municipalità di Gerusalemme, ma non è così e l'autorità palestinese non può intervenire, quindi c'è una situazione un pochino particolare. All'interno del campo dovrebbero abitare circa 25.000 persone, circa perché non è così semplice riuscire a individuare quante persone effettivamente abitano in quel contesto lì, anche per le condizioni in tutte le aree che ci sono intorno al campo. Il problema maggiore dal punto di vista igienico-sanitario è proprio la gestione dei rifiuti. Al momento il sistema prevede che le persone gettino semplicemente i rifiuti al di fuori della propria porta e degli operatori, degli staff di UNRWA raccolgano manualmente questi sacchetti o questi rifiuti e vengano portati in una cosiddetta transfer station, che non è altro che un mucchio di rifiuti all'ingresso del campo, dove poi vengono portati via con dei camion. L'idea è proprio di ottimizzare questo sistema, quindi fornire dei bidoni per ogni edificio, fornire dei sistemi per lo svuotamento automatico dei bidoni e evitare che ci ritrovino sempre rifiuti per terra, eliminando quindi quel problema di percolato, il problema di odori e di tutti quello che ci possono essere effetti collaterali. Al di là del progetto ti faccio una domanda invece più generale: come avete vissuto la fase, insomma, cioè abbastanza tesa, recente, del trasferimento dell'ambasciata statunitense? Sicuramente sono stati momenti di tensione, quindi la popolazione palestinese sicuramente non l'ha vissuta per niente bene, lo vedono come un successivo passo per non trovare una soluzione a quello che è il conflitto fra Israele e Palestina. Quindi anche noi con le nostre attività abbiamo avuto dei ritardi, abbiamo avuto dei problemi nel lavorare direttamente all'interno del campo.